penso a tutto quello che ho fatto fino adesso, a tutti i miei sbagli e a quelli che farò. Mi fermo un attimo e penso se vale la pena vedere il mio ideale che non so. Mi fermo un attimo e penso se sono riuscito a fare qualcosa di buono per chi mi conosce. Mi fermo un attimo e cerco fra tutti i miei ricordi e le mie scelte sbagliate o giuste. Mi fermo un attimo e chiedo scusa a chi ho deluso e se senza volere ti ho fatto del male. Fermo un attimo e penso, e penso che senza i miei sbagli, senza le mie scelte giuste o sbagliate, senza le delusioni che ho preso adesso, non sarei quello che sono.